oggi a tutti il nostro caro Checco. Non sembra per niente fiacco, in peccia l'arco, tanto quanto basta, e per una volta lascia perdere la sua modestia. Per noi che gli vogliamo tutti bene, nessuno c'è che con lui compete. Il professor Lonero, così il suo archetto, e anche Autoughi l'ho già detto. Del suo violino, ascolta un po' e gira il tiracantino, finché l'accordatura non è perfetta, inizia quando vuoi senza fretta. Che bel suono vellutato stasera, quando porta l'archetto alla tastiera, vibra un pochino e suona l'accordo. La tristezza per lui non sia che un ricordo. Speriamo che non demorda, e se anche il suo violino si scorda, avrà tutto il tempo per rimetterlo a posto. Lo farà ad ogni costo. E poi avrà da una canzone questa piccola emozione.